Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con la regista Lisa Ferlazzo Natoli per presentare lo spettacolo When the Rain Stops Falling di Andrew Bowell a Roma al Teatro Argentina dal 26 febbraio al 3 marzo 2019. Lisa, ben trovata. Ben trovati a tutti, ciao. Lo descrivi brevemente a chi ci ascolta? Certo, è un testo molto singolare che si muove nel tempo dal 2039 al 1959, passando per quattro generazioni familiari, però e due continenti, Europa, Inghilterra e Australia. Però non è un testo non scritto per flashback, ma fa proprio del viaggio nel tempo, inteso come compresenza del proprio passato, presente e futuro, quasi una forma stilistica, una cosa che mi ha affascinato. Tutto nasce da una rottura, da una ferita enorme a livello di cronico di una coppia nel 1959, di cui Bowell però ci racconta partendo dalla fine, quindi dal 2039, andando avanti appunto e indietro e spostandosi anche geograficamente. E come le generazioni, queste generazioni di padri e di figli, che di fatto non si sono mai incontrati, solo nel finale c'è un incontro fra un padre e un figlio, reagiscono a questa ferita e a tutte le conseguenze, anche le più lontane, e le madri che come reagiscono, resistono, omettono, sbagliano. Quindi è molto interessante perché c'è un grande lavoro d'ensemble, sono 9 attori, che è delle altre ragioni che mi ha sedotto del testo. Infatti Bowell stesso dice: io non scrivo mai per un personaggio, un protagonista, un eroe, ma scrivo anche proprio per una cosa politica, perché mi interessa la species, che è una nozione che non ho in Italia, e mi interessano gruppi antropologici, famiglie, gruppi sociali, momenti storici, che è l'altra fascinazione, perché il testo è intriso di piccoli gioielli che sono nodi storici che ci fanno confrontare con la storia. Per esempio c'è Elizabeth, coppia base, che a un certo punto dice: mentre i carri armati invadevano Praga, io dipingevo. Quindi ci sono tutte queste sottotracce nel testo di che raccontano in maniera assolutamente minuta e privata anche la volta del secolo. È un piccolo ragionamento indiretto anche sul Novecento. Poi l'altra cosa bellissima, che è il sottotema scrossante di tutto il testo, ma mai ideologicamente tematizzato, è la questione del clima. Perché in questo testo piove tutto il tempo, cioè piove dentro le anime e fuori nel mondo, c'è un mondo che sta appunto affrontando una sorta di scongelamento, come sta di fatto avvenendo oggi, e quindi questa pioggia torrenziale che aumenta sempre di più, tanto che il testo inizia con un pesce che cade dal cielo. Non è la prima volta che ti occupi di Novecento e di rapporti tra generazioni? No, evidentemente è proprio una cosa che mi affascina, e quindi questo passaggio, queste piccole epopee, anche familiari, anche di individui comuni, però appunto cesellate di eventi, di piccoli cataclismi, no? Di interferenze, tragedie e miracoli, evidentemente adesso è un modo per continuare a riflettere che questo, cioè che questa volta del secolo, e anche come un po' traghettarlo, tornando alle domande. Pur quindi un teatro di testo, un teatro d'attore, anche su certi dispositivi che ragionino su qui e ora, sì. E storie, anche quali sono le storie che ci riguardano, no? Che ci muovono. Sì. Questo nuovo lavoro dove ha avuto origine? ha avuto origine a Erchia, Emilia Romagna Teatro, dove noi abbiamo avuto la fortuna, il privilegio di fare una lunga residenza al Teatro Vignola, perché Erchia ha fatto un'alleanza con questo nuovo Teatro a Vignola. Lo dico perché è una cosa molto rara per i teatranti, avere un teatro per quasi un mese a disposizione da mattina a sera per poter provare, sbagliare, sperimentare. E, con una produzione appunto fatta di compagni di strada, ripeto, un ensemble, anche un ensemble di regia, poi sono qua a rappresentanza, ma la regia è disegnata da me, da Alessandro Ferroni, Maddalena Parise, Luigi Biondi, che siamo la sezione regia. Poi abbiamo delle divisioni di compiti, perché così è, per ordine, ma è ragionamento comune, così come i nostri 9 attori, compagni di strada, che sono Francesco Villano, Emiliano Masa, la Caterina Carpio, Tania Garriba, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Marco Cavascoli, Camilla Semino Favro e Lorenzo Fregiani, che sono tutti, quando più e quando meno, compagni di strada, scelti perché disegnano e costruiscono con lo spettacolo. E infatti, dove parlava di un ensemble, è una parola che trovo bellissima, ne parla nei suoi testi e ne ha parlato vedendo lo spettacolo. Quindi siamo nati a ERT, siamo feriti lì, abbiamo debuttato l'Arena del Sole. ERT ha anche messo in opera questo bel progetto di pubblicazione di testi di drammaturgia contemporanea assieme all'editore Sossella, e tra i vari testi è stato pubblicato anche Wendering Stops Falling, che ha tradotto Margherita Mauro, che è anche il nostro drammaturgo e che ha seguito tutte le prove, non a caso, perché è un progetto che viene da un lungo setaccio. E in ultimo, sempre ERT ha voluto che facessimo una ricerca, approfittassimo dell'occasione per cercare fra i tantissimi testi di drammaturgia contemporanea australiana, questa strana enorme isola che ci guarda dall'altra parte del mondo, e quindi è stato pubblicato un secondo volume con 3 testi inediti. Susie Miller, Nakia Nui e Tom Holloway sono i 3 autori che Margherita con molta sapienza ha trovato, lei ha tradotto assieme a Monica Capuani. Quindi è un progetto grande. Siamo passati per Modena, siamo adesso felicemente a Teatro 2 a Parma, che è il nostro terzo coproduttore insieme a Teatro di Roma, e finiremo la tournée di quest'anno arrivando a Roma, dove ci sarà anche una seconda bellissima installazione proprio sul clima di Daniele Spanò, che si intitola Celum, nei sotterranei del Teatro di Roma, che quasi nessuno conosce. Tutto questo grande progetto è stato innescato e voluto appunto da ERT e da Claudio Longhi, che non è un caso che hanno chiamato Claudio sulla sua stagione guardati intorno, no? Quindi da dove vengono storie che in realtà parlano di noi, racconti e dispositivi teatrali che ci dicono del nostro presente. Mi hai detto di una lunga opera di setaccio, cosa ti ha convinto maggiormente di questo testo? Intanto, innanzitutto, da semplice autrice, la notte che l'ho letto è stato come leggere un racconto, un folgorante racconto, quindi velocissimo, e mi sono sentita commossa, ma è stata proprio una cosa semplice e immediata. Poi, per quanto riguarda il testo nello specifico, la forma anche di racconto teatrale che ha, perché ha una scrittura, soprattutto iniziale, di didascalie formidabile, tanto bella, che descrive, non voglio dire cosa, ma scoprirà il pubblico, i personaggi che abbiamo voluto registrare. Quindi questa forma mista, il fatto che Bovel lavora con i codici e dà ai propri personaggi, quindi attori, compiti diversi, quindi è mobilissimo. C'è una coppia che noi vediamo in 4 scene andare avanti per 10 anni, una madre e un figlio che spendono le loro 3 scene in un solo pranzo, un'altra coppia giovane in cui vengono descritte 3 settimane, ma neanche, un'altra coppia ancora qualche mese, e il personaggio che apre e chiuderà lo spettacolo sarà l'unico che incontrerà il proprio figlio, e in realtà è tutto nell'arco di una giornata. Quindi questo lavorio, questa disposizione del tempo e quindi delle tante possibili narrazioni che questi tempi diversi presuppongono, mi ha incantato. L'altra cosa è che per quanto riguarda i personaggi femminili ci sono 2 Elizabeth e 2 Gabrielle, ovvero Elizabeth giovane e se stessa più anziana, Gabriel giovane e se stessa più anziana, che chiaramente sono in momenti diversi, ma allo stesso tempo che Bovel fa vertiginosamente complicare in compresenza fantasmatica negli stessi spazi. Quindi, come dire, come quella cosa di quando noi rivediamo un fatto del nostro passato, provando addirittura in maniera folle a modificarlo, no? Pur sapendo che è passato. E lo facciamo, oppure intuiamo per un attimo il nostro futuro, e quasi intuiamo anche come disinnescare, no? Quel futuro che sta arrivando, ma non ci spostiamo. Questa è stata una cosa che mi ha dato gli elementi per la pertinenza rispetto proprio a come percepiamo poi quel tempo sincretico e alla vita, e anche per la puntualità con cui li descrive. Sì. E poi un linguaggio leggero, velocissimo, in se stesso semplice, è il dispositivo che è complesso, il linguaggio è semplicissimo ed è appunto cesellato di piccole cose, scegli gli anni a caso, Bovel, 1988, madre e figlio, ma come pensi che possa aver votato la faccia con la donna così crudele, no? Madre, ex comunista, atea, piccole cose che non sono spiattellate in faccia allo spettatore, ma che lavorano dentro, piano, e ragionano, no, con noi. Oppure quella, questo meraviglioso aneddoto che racconta Elisabeth giovane di Vero, che a cui regalarono una vestaglia nuova, bellissima, scarlatta, e lui appena si la mise si guarda intorno e tutto gli sembrava vecchio, i mobili, i vestiti, e si scatenò in una corsa all'acquisto, più comprava più tutto non gli sembrava adeguato. E Elisabeth appunto nel 1962 dice: guarda Henry, credi che io sia matta con questo aneddoto, però è una critica folgorante al capitalismo prima che il capitalismo esistesse. E la domanda è: saremo mai felici con la nostra vecchia vestaglia? E questo chiaro che ci innamora quando lo leggi, perché ridi, e però sai che è vero. In chiusura ricordiamo anche l'esperienza da Casa d'Argilla. Certo, assolutamente, perché appunto la Casa d'Argilla è quell'ensemble che ha reso possibile tutto questo, quel gruppo ideatori, pensatori, di cui il quarto elemento è Alice Palazzi, che in questo caso non è nel progetto direttamente, ma che sempre lo coordina a monte. Noi continuiamo a lavorare appunto su progetti atipici, mi viene da dire, anche quando poi la ricaduta a volte è, come dice Alice, finalmente solo uno spettacolo, e che quest'anno per esempio concluderà la Casa d'Argilla il progetto IF, il triennio, con insomma una grande conclusione. Quindi mi viene da dire che questi 10 anni di lavoro, stando dentro i teatri e a volte invece volendone uscire, no? Per ragionare in un altro modo, per con la città, per capire cosa c'è da costruire fuori per poi tornare su un palco teatrale, perché noi abbiamo formazioni tutte atipiche, io sono la più pura, se vogliamo, la più teatrante. La Parisa è un'iconologa, si occupa di immagini e di contenuti, è una curatrice. Alessandro Ferroni è un autore, un documentarista e si occupa anche del suono degli spettacoli. È un'attrice, ma una formidabile organizzatrice artistica di progetti, e fa budget degni, come dire, con l'estetica di un abito da sé, è un'altra cosa importantissima, che un budget fatto bene è una questione etica ed estetica in cielo. Questa stranizia del nostro gruppo, credo, mi viene da dire oggi, che fa sì, intanto abbiamo un po' di ossigeno nei cuori, e che poi riusciamo ancora a provare a capire che cosa ci interessa, ecco, su cosa costruire un progetto. Allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo When the Rain Stops Falling di Andrew Bovel a Roma al Teatro Argentina dal 26 febbraio al 3 marzo 2019. Saluto e ringraziamento alla regista Lisa Ferlazzo Natoli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Crepi il lupo, un abbraccio a te, ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao a tutti, ciao ciao. Con l'autrice e attrice Elena Arvigo per parlare della trilogia Arvigo a Roma, al Teatro Torlonia, dal 1 al 31 marzo 2019, con 448 Psychosis, dal 1 al 3 marzo, Il dolore, 23 e 24 marzo, Una ragazza lasciata a metà, il 30 e 31 marzo. Elena, ben trovata. Ciao, ben trovato, ciao, ciao. Ci racconti Grazie, di questo impegno romano, ci dici un po'? Sì, è una cosa chiaramente di cui sono molto contenta, perché sono 3 spettacoli. Il Teatro di Roma quest'anno ha dedicato, come hanno scritto, no, il palcoscenico, hanno fatto alcuni ritratti d'artista, e quindi tra questi hanno scelto dei lavori miei del passato, per cui è ovviamente una cosa di cui sono molto contenta, perché questi sono, diciamo, il teatro nazionale in qualche modo è il teatro da cui io provengo storicamente, mi sono formata al piccolo, però poi sono teatri che io ho allegramente un po' abbandonato per fare negli ultimi 10 anni spettacoli miei, autoprodotti, e quindi in qualche modo tornare in questo tipo di strutture istituzionali con gli spettacoli così anarchici, autoprodotti, mi sembra una cosa doppiamente, per me doppiamente emozionante, ecco, cioè non sono prodotta da qualcuno, non è risultato di scambi produttivi o di altre cose, quindi ha un valore per me ovviamente più grande. La scelta di questi tre lavori? Allora, 448 Psicosi è proprio stato il primo della lunga serie di cose, diciamo, indipendenti, e viene da Valentina Calvani, che è la regista, che mi portò via proprio, no, dalla tournée delle Signorine di Vico facendomi questa proposta, quindi dipende, diciamo, moltissimo da lei. Il dolore è un debutto, diciamo, vabbè, Marguerite Duras è un vecchio amore, un grande vecchio amore, infatti sono molto intimorita perché avere a che fare veramente con un gigante ed è un testo straordinario. Vediamo che cosa succede. E Marmestride è un testo che mi diede da fare a Trend, Rodolfo Di Gianmarco, e non l'ho più lasciato perché comunque è un testo bellissimo di questa autrice irlandese, che in realtà non è molto conosciuta qua, ma è stato proprio un caso letterario sia in Inghilterra che in America per questa sua scrittura così sincopata, particolare, a flusso di coscienza, molto, molto speciale. Li vogliamo descrivere brevemente a chi ci ascolta? Diciamo che il primo forse è il più semplice da descrivere perché è il più famoso, no? Quindi fare 448 Psicosi è un po' come fare il monologo di Essere o non essere di Amleto, cioè sta ai monologhi, agli spettacoli, diciamo, monologo, un po' come sta Amleto ai monologhi dentro gli spettacoli, cioè proprio un testo. È un'autrice molto conosciuta, molto amata, molto anche chiacchierata, no? Per la sua biografia in qualche modo. In realtà è un testo, secondo me, un inno veramente, è un testo come, io non voglio neanche parlare con le mie parole, con quello che ha detto lei. Lei dice: questo è un testo che parla d'amore e della mancanza di amore. Sono 24 quadri senza indicazioni né temporali né di altro tipo. E sì, racconta di questo gesto che è togliersi la vita e questa sorta di schianto verso questo momento, però non c'è una trama. Infatti è sempre molto difficile parlare di questo spettacolo perché è epico, è un classico, è come voler raccontare la trama di Medea, no? Cioè non puoi dire: c'era questa donna che si è sposata con Giasone, poi Giasone l'ha tradita, ha ucciso i figli, cioè non è cronaca, è un po' diverso, mito e poesia, e anche qui si parla di, c'è tanta carne al fuoco, poeticamente, umanamente, quindi è poesia comunque, prima di tutto, è un teatro veramente di poesia, e quindi per questo la trama non esiste in qualche modo. Se posso essere un po', posso sfogarmi qui con te, perché spesso, no, c'è questa cosa, la trama, che cosa succede, 448, suicidio in scena, non è così. Come dire, appunto, Amleto si vendica del padre, ma sì, anche, no? Però non è la trama, no? Certo. Diventa un uomo, diventa Amleto, è diverso. Poi il secondo, diciamo che la Duras sta sempre in questo cornicione in cui non si capisce se le cose le ha vissute o se le ha inventate, o forse entrambe, no? Mm-hmm. Per cui lei dice: un diario autobiografico che ho ritrovato, però non si sa in realtà quanto è vero. Comunque sia, sicuramente è ambientato nel 1945, quando in un momento molto preciso in realtà, perché a cui io non avevo mai pensato a questa dinamica, perché finisce la guerra, quindi una parte c'è questa grande, ovviamente, felicità, sollievo, è finita la guerra, no? Passato il Reno, cioè è finita la guerra. E che cosa succede però? Che tutte queste persone che erano nei campi di concentramento devono devono tornare, cioè, c'è questa attesa, perché non è che, voglio dire, finisce la guerra, aprono i campi e questi partono e arrivano, cioè c'è una situazione complicatissima, aprono questi campi, non si sa chi tornerà, come tornerà, è una situazione di attesa e di dolore, infatti in questo caso il dolore è proprio il dolore dell'attesa, questa attesa che diventa uno stato di sospensione dalla vita, perché non si può partecipare alla gioia collettiva della fine della guerra, perché tu stai aspettando qualcuno e non puoi far altro che stare o vicino al telefono o andare tutti i giorni alla stazione a vedere se scende dal treno, chiedere alle persone. Non è che ci sono delle liste di cose, capisci cosa voglio dirti? Cioè, sì, sì. Come milioni di persone sono state nei campi di concentramento, milioni di persone aspettano senza sapere se chi è partito tornerà. E non ci avevo mai pensato questa cosa io, cioè nel senso che si parla della guerra, dei campi di concentramento tantissimo, no, se ne è parlato tanto, si sono visti film, spettacoli, però di questo momento in cui si aprono e poi c'è chi torna e chi non torna, è l'attesa, l'ignoto, è un momento molto particolare, è uno stato, una descrizione, e parla di questo in sostanza. Lei aspetta Robert Anselme, che era suo marito, è vera questa cosa comunque, cioè non si sa se il diario è reale, però in realtà è vero che lui è stato, che poi ha scritto La specie umana, lui è uno scrittore, e è vero che lo andarono a prendere Mitterrand e altre persone, perché lui era nel campo, ma era stato abbandonato lì perché era troppo malato. Quindi ovviamente in questi casi estremi vige la legge che viene portato via chi sta meglio, no? Sì. Cioè, anche perché bisognava affrontare lui era da fa, un viaggio importante, cioè, e quindi se lo vanno a prendere e lo portano a Parigi, arriva che pesa 38 kg e parla di questo in sostanza, col suo stile inconfondibile. E invece il terzo è Emma McBride e La ragazza lasciata a metà, A Girl is a House Something, una ragazza, come una cosa che è formata a metà, è il romanzo di formazione, questa ragazza in Irlanda cattolica che vive con questa madre e questo fratello che è un po' l'altra parte della sua anima proprio, questo fratello più grande, però è malato. E questo monologo, ha questo flusso di coscienza, è una specie di, è salvifico, cioè attraverso questa confessione lei in questo modo si redime un po', è una ragazza un po' perduta, potrebbe rientrare nelle ragazze interrotte, no? Mm-hmm. Nel senso che vive con grande senso di colpa questa malattia del fratello, va via da casa, va a studiare fuori a Dublino, comincia a fare una vita dissoluta, poi torna, il fratello muore, insomma c'è tutta una… qui c'è effettivamente una trama invece, però la cosa importante anche qui non è la trama ma è proprio il linguaggio, questo stile, questa grammatica, questa sintassi scoppiata, spezzata, punteggiatura, molto particolare proprio la scrittura di McBride, molto, molto difficile, infatti tradotta egregiamente da Riccardo Duranti, che ha tradotto anche Kate Tempest, Raymond Carver, bravissimo, straordinario traduttore. E questi sono le mie tre perle. Ecco, in queste tue tre perle è individuabile un tratto che delinea un po' il tuo percorso artistico? Partiamo dalle cose semplici, sono tre donne sicuramente. C'è una mia attrazione verso la scrittura femminile. Non devo dire scelta, è un po' una riflessione che faccio a posteriori, no? Quando uno dice ma tutte le estati vado al mare, mai in montagna, forse perché in realtà mi piace più il mare, no? Cioè, forse no, però sicuramente, dato che sono testi che più o meno scelgo o tengo, no? Cioè nel senso che comunque poi non lascio, è perché mi piace essere voce di scrittrici, le trovo che sia una scrittura, ma come altre mi piacerebbe affrontare, da Bachmann, Ingeborg, alla Simone Weil, i miti, cioè comunque fatto tutte il progetto delle Imperdonabili su Politkovskaja, Svetlana Alexievich, c'è sicuramente un'attenzione al, al femminile, d'altronde sono una donna pure io, e quindi forse c'è una, un riconoscimento, oppure chissà, non lo so, diciamo che non, sicuramente non è che di qua non voglio fare, non voglio mettere in scena Carver o Hemingway o no, mi piacciono i testi belli, quello sì. È come quando fai la lista delle vacanze, che non è che uno dice, non è che non voglio andare in Giappone, no? Però prima di andare in Giappone mi piacerebbe andare in Islanda, mi piacerebbe andare in un sacco di... Quindi, come dire, non è che non mi piace Hemingway o alcuni racconti sono straordinari, sarebbe bellissimo farne degli elefanti bianchi, altre farne degli atti unici teatrali. Sarebbero bellissimi, però prima c'è sempre qualche altra cosa che mi rapisce, no? Sì. Che mi porta via. Mm-hmm. È un po' questo, forse. Elena, in chiusura ci lasci tutti i tuoi riferimenti web per seguirti? Allora, non ho nomi d'arte, quindi mi chiamo Elena Revigo e così sono su tutti i social, su Instagram, su Facebook. C'è la pagina dell'evento, dello spettacolo, quindi poi sul Teatro Torlonia, sul mio Facebook, sul mio Instagram, quindi sicuramente, o sul sito del Teatro Torlonia, Teatro di Roma. Ci sono due incontri che vorrei segnalare. Sì. Allora, ce n'è uno domenica 24 alle 17 sì. alla Libreria Trapezista di Trastevere, un incontro con Gaia Cenciarelli, lo spettacolo, e un altro incontro alla libreria Tuba del Pigneto con Lorenza Indovina, che è un'attrice, una mia cara amica, e anche qui presentiamo la trilogia in questa bellissima libreria. Quindi ci sono questi due incontri. Bene, e allora ricordiamo la trilogia Arvigo a Roma al Teatro Torlonia dal 1 al 31 marzo 2019, con 4 and 48 Psychosis dal 1 al 3 marzo, Il dolore il 23 e 24 marzo, Una ragazza lasciata a metà 30 e 31 marzo. Un saluto e un ringraziamento ad Elena Arvigo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Reti, e vi ringrazio per questo spazio, grazie, grazie mille. Alla ciao. Prossima, ciao. Alla prossima, ciao. Con Gianni Farina della compagnia Meno 20 per parlare di un appuntamento a Roma, al Teatro Argo. 27 e 28 febbraio, lo spettacolo Invisibilmente, 1 e 2 marzo, Perdere la faccia. Gianni, ben trovato. Ciao, ben trovato anche a te. Sempre un piacere risentirti. Anche per me. Senti, ci presenti questi due lavori? Sì, sono due lavori rispettivamente del 2008 e del 2011, quindi si tratta di due lavori che hanno già qualche anno sulle spalle, però sono lavori che continuiamo a sentire molto vivi e vivaci, anche attuali, diciamo, utilizzo un termine che non mi piace moltissimo, ma credo che questa volta sia il caso di utilizzarlo, e che continuano a girare e per la prima volta li presentiamo in coppia. Perché è da tanto che pensiamo a questa cosa, perché questa coppia ha fatto coniare un termine a Giacchè, di cui andiamo, un termine di cui andiamo molto orgogliosi, cioè il periteatro. Lui parla dei meno 20 e il periteatro in un articolo uscito sullo Straniero qualche anno fa. Sono due lavori che hanno questa cosa in comune, girano intorno allo spettacolo, girano intorno all'opera, e proprio il fatto che l'opera non viene data è la caratteristica che li accomuna. Li descriviamo brevemente di cosa si parla. Per non spoilerare troppo, magari non entro troppo nei certo. dettagli. Comunque, a livello, diciamo, più forse più tematico che narrativo, preferirei dire, per appunto per lasciare il gusto della sorpresa. Il primo, Invisibilmente, parla della manipolazione e del controllo delle menti, e lo fa attraverso un incidente che capita all'interno di un teatro, il Teatro Argo in questo caso. Ci sarà un problema che che impedirà il corretto svolgimento dello spettacolo, e i due protagonisti, quindi i due lavoratori dello spettacolo, faranno i conti con un'entità non meglio definita ma evidentissima per il pubblico, molto presente, che in qualche modo legge il loro pensiero e arriva anche a manipolarlo. La scommessa, e devo dire spesso vinta, per fortuna, è quella di riuscire in parte a manipolare anche il pensiero e le azioni del pubblico. Quindi i presenti, gli spettatori presenti in sala, avranno a che fare con questa ironica, tragicomica entità invisibile, e dopo aver riso di ciò che accade ai due malcapitati, si renderà conto che questa entità in realtà li riguarda, e a quel punto normalmente ridere lo spettatore, perché si sente chiamato in causa. Perdere la faccia invece è un progetto nato dalla collaborazione con Daniele Cipri, una figura che amiamo e stimiamo moltissimo, e che in occasione dell'edizione del 2011 del Festival di Sant'Arcangelo, su suggerimento di Ermanna Montanari, allora la direzione artistica del Festival, ha collaborato con noi per un progetto a cavallo tra cinema e realtà. Le questioni in campo sono molte, forse quella più attuale, appunto, quella che all'epoca forse incominciava a sentirsi l'odore e oggi è dirompente, è la questione delle fake news. È un fake questo spettacolo, questo progetto è un fake, e non voglio dire qual è la menzogna, però parla proprio della menzogna. E una delle scommesse è quella di superare un attimo, osare un po' di più la menzogna implicita sempre nel teatro. Il teatro è rappresentazione e finzione. Beh, abbiamo tentato di spingerci un pochino più in là e far diventare la finzione inganno. E questo, un'altra sfida di questo progetto è la sfida tra il cinema e il teatro. L'attore cinematografico ha dalla sua una replicabilità perfetta e teoricamente infinita. Una volta girato il film, il cortometraggio è sempre perfetto, e l'attore teatrale invece deve ogni volta rimettersi in gioco e tentiamo una sorta di gara tra le due tipologie, e ovviamente il vincitore è scontato. Ma proprio la sconfitta dell'attore teatrale è la questione che anima questo progetto, e il fallimento dell'attore teatrale gli farà appunto perdere la faccia. Gianni, presentiamo anche un po' brevemente la storia della compagnia. Sì, volentieri. Menoventi nasce nel 2005 da me, Consuelo Battiston e Alessandro Miele. Alessandro Miele poi 4 anni fa è uscito dal gruppo per fondare una compagnia che ha sede a Lecce, Crocco Miele, insieme ad Alessandro Crocco, che straconsiglio a tutti, i loro progetti sono tutti quanti assolutamente da vedere. E ora il Consuelo collaboriamo continuamente con altre figure, già lo facevamo in passato, ad esempio, per tornare ai lavori che abbiamo appena citato, in Perdere la faccia c'è il contributo determinante di Rita Felicetti, attrice materana che ora vive a Bologna, attrice batterista. Nel 2005 abbiamo realizzato il primo spettacolo in festa, e lo abbiamo provato a Pieve Santo Stefano con l'aiuto di Luca Ricci, e il teatro e anche l'appartamento dove si viveva erano sprovvisti di riscaldamento. Abbiamo fatto le prove tra dicembre e gennaio, quindi abbiamo patito un gran freddo per tutto l'inverno, e abbiamo scelto il nome -20, che appunto è una temperatura, proprio per questo, per il freddo che c'era entrato dentro. E come dice Tornagiacchè di quell'articolo che citavo prima, questo freddo c'è entrato dentro e si vede nei lavori, e mi piace pensare che sia vero, perché l'ironia è sempre nera, a mio avviso, dei nostri progetti, o almeno questo è nelle nostre intenzioni. E poi abbiamo prodotto diverse cose, cito l'ultimissimo progetto di cui abbiamo anche parlato qualche mese fa, che è Docile, e ora stiamo lavorando su Majakovskij, e ecco tutto. E in chiusura allora ci lasci tutti i riferimenti web che riguardano la compagnia? Certo, il sito è www.meno20.com, far attenzione perché meno20.it è una ditta di surgelati. Esiste una pagina Facebook, meno20, c'è il calendario nel nostro sito. Dopo Roma avremo una primavera abbastanza densa, andremo con vari progetti a Salerno, andremo nelle Marche, andremo in Francia, e lì c'è il calendario completo della primavera. Bene, e allora ricordiamo questo doppio appuntamento a Roma, al Teatro Argo, con la compagnia Meno20, 27 e 28 febbraio Invisibilmente, e il 1 e 2 marzo, giusto? Sì. L'altro spettacolo, ricordalo tu? Perdere la faccia, ore 20:30. Un saluto e un ringraziamento a Gianni Farina della compagnia Meno20, un abbraccio, in bocca al lupo, ci si vede a teatro. Crepi il lupo, ciao, un abbraccio. Con Gianni Spezzano, autore e regista dello spettacolo La sposa prigioniera, a Roma al Teatro Studio 1 dal 28 febbraio al 3 marzo 2019. Gianni, ben trovato. Salve a tutti. Lo raccontiamo brevemente? La sposa prigioniera è uno spettacolo di nascita, un laboratorio che noi abbiamo fatto all'Est, che è un teatro che sta in provincia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, quasi non in provincia di Napoli, in realtà è Napoli, ancora San Giovanni a Teduccio, un quartiere di Napoli, alla periferia est. Questo laboratorio è durato un anno e mezzo, sono stati, diciamo, chiamati tutti i giovani territori che volevano approcciarsi appunto al mondo teatrale. Questo è un lavoro che mi è stato abbastanza avanti da questo tempo, con cui io collaboro, e io ho attivato un laboratorio all'interno di questo grande progetto. È durato un anno e mezzo, e durante questo laboratorio abbiamo avuto l'esigenza di lavorare su un testo dopo aver fatto formazione teatrale. Questo testo che avevo scritto, che fa parte di una trilogia che ho scritto su Napoli, e questo è il terzo capitolo, mi sembrava adatto per questi ragazzi, in realtà. Abbiamo cominciato a lavorare sul testo. La storia prigioniera è una riflessione sul sistema. Sistema inteso come, ovviamente in questo caso specifico, il sistema della comunità, ma pure in sensi, e facciamo una riflessione più generale su che cosa è un sistema, quale sistema ci ingabbia noi quotidianamente e come noi ci relazioniamo con i sistemi in cui siamo inseriti, no? Il sistema famiglia, il sistema scuola, il sistema lavoro. E lo spettacolo parla di questa ragazza, Isabella, che si ritrova chiusa in questa casa perché il suo marito è stato arrestato e da 5 anni è in galera, e per tradizione all'interno di questo clan, quando il marito è in galera, anche la donna, diciamo, resta quasi segregata in casa perché non può allontanarsi, non può uscire se non con gli elementi del clan. E quindi è la storia di questa ragazza che si è chiusa in questa casa da 5 anni e vive, diciamo, questo calvario. E dopo, quando il marito torna, diciamo, dalla prigione, si mettono tanto tutta una serie di meccanismi che poi porteranno, insomma, a un finale in cui vedremo questo clan disintegrarsi, autodisintegrarsi, per dinamiche interne. Un racconto, diciamo, a tratti un po' pulp, moderno, un po' pop, sia per quanto riguarda la forma dialogica, sia per quanto riguarda la struttura proprio drammaturgica. Su quali elementi hai voluto centrare l'attenzione? Noi siamo partiti da una riflessione molto semplice. Ci siamo chiesti da dove possiamo partire per raccontare il sistema e quindi un antisistema. Siamo partiti da una ricerca e dopo diversi esperimenti abbiamo capito che il movimento dei raver degli anni 70-80 poteva essere un buon punto di partenza. E infatti partiamo da questo rave, partiamo dal manifesto del rave, questa ragazza che recita questo manifesto del rave, e lì poi inizia questo rave che funziona un po' come un'isotopia narrativa, anche estetico-filosofica, che si riverbera all'interno, diciamo, di tutto lo spettacolo. Questa estetica del rave torna in continuazione all'interno, diciamo, dello spettacolo, andando anche a colmare con delle azioni coreografiche alcuni passaggi drammaturgici. E quindi questo, diciamo, siamo partiti da questa riflessione, anche come il rave, che parte come un fenomeno antisistema, alla fine si omologa al sistema attraverso poi, diciamo, noi lo rappresentiamo con l'avvento della pasticca e delle droghe sintetiche, che hanno un pochino minato questo movimento, che insomma, tipo con altri presupposti, trasformandolo poi in centro commerciale di droghe in realtà. E quindi anche questa decadenza, diciamo, di un movimento antisistema che si sistemizza a sua volta e in un infinito ripetersi, diciamo, di omologazione a una struttura sistematica, ecco. Hai detto che è il terzo capitolo di una trilogia, e qual è stato il percorso precedente? Questo drammaturgico, diciamo, editoriale parte con Bambosina, che è uno spettacolo che abbiamo fatto alla Friccia con i testi da 2011, che è stato portato un giro. Poi c'è stato il secondo capitolo, che è La Donna di Cuori, che è un testo che ha vinto un premio di drammaturgia, però ancora non è stato messo in scena. E poi questo terzo capitolo, che è La Sposa del Genere. Diciamo, tutti sono ambientati a Napoli e tutti vedono concentrati sulla figura della donna, che è sempre una protagonista, che è sempre chiusa in una casa, può, diciamo, uscire e subisce l'azione dell'uomo. Questo dal punto di vista strutturale, cioè drammaturgicamente segue sempre l'azione di questo maschile, questa l'azione del segmento maschile fino, diciamo, alla risoluzione finale in cui, diciamo, si ribella. Mm-hmm. Questa, diciamo, è la struttura che si ripete in tutti e tre i capitoli. I macro argomenti sono in Bambolina la droga, in Donna di Cuore il gioco d'azzardo, e nella Sposa prigioniera il sistema, appunto. Spendiamo due parole anche sull'esperienza della compagnia NET. Guarda, io non sono proprio parte della compagnia NET, non faccio parte della compagnia NET. Io ho una compagnia mia che si chiama Cerbero Teatro, con Cristian Scicà, con cui collaboriamo con i NET da diverso tempo, però non sono io referente, diciamo, per parlare dell'esperienza. Posso parlarti di questo lavoro che stiamo facendo sul territorio con questa giovane compagnia che chiamano Giovani Onest, che stiamo formando da ormai due anni e mezzo, appunto per creare una realtà solida sul territorio che possa comunque muoversi da San Giovanni e per poter poi, insomma, fare esperienza in tutta Italia e portare anche, diciamo, questa esperienza di formazione artistica, culturale, umana in tutto il territorio. Tornando allo spettacolo, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? La Sposa prigioniera va da Studio 1 dal giovedì 28 a 3 marzo. E tutti i riferimenti si possono trovare sulla pagina Facebook del Teatro Studio 1 e sul profilo Instagram della nostra compagnia, cioè Teatro NET Compagnia NET, e sulla pagina Facebook della Compagnia NET. Perfetto, allora ricordiamo La Sposa prigioniera a Roma al Teatro Studio 1 dal 28 febbraio al 3 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Gianni Spezzano. Gianni, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Bene. E ci vediamo a teatro. Ciao Federico, ciao, ciao. Grazie a voi, ciao. Con l'autore Riccardo Vannuccini per presentare la prima nazionale dello spettacolo Ofelia, o la macellazione degli animali domestici, a Roma alle Carrozzerie Not dal 28 febbraio al 3 marzo 2019. Riccardo, ben trovato. Grazie a voi. Ce ne parli? Certo, con piacere. È un una performance dedicata al tema dell'animalità, fa riferimento a alcuni studi di alcuni filosofi che sono Derrida, che sono Agamben, che sono Felice Cimatti, che sono Adriana Cavarero, che è una filosofa femminista, e si parla in pratica di un recupero dell'animalità dell'essere umano a fronte del fatto che globalizzazione, tecnologia ci ha distanziato dalle cose del mondo e quindi anche dagli altri esseri umani e quindi anche da noi stessi. Questo fa sì che siamo poco presenti, poche sono le cose che ci riguardano, poche le cose che ci spaventano, e quindi un recupero dell'animalità in questo senso dovrebbe essere un maggiore recupero, diciamo, di una presenza al mondo. Questo un po' è il tema. Naturalmente lo spettacolo non è una descrizione di una pagina filosofica, noi giochiamo con questo con queste suggestioni lo facciamo poi traducendo questo in una performance. Riccardo, com'è nato tutto? Qual è stata l'idea iniziale di partenza? È un po' antica, è un po' diciamo, fa parte del mio lavoro, del nostro lavoro. Noi 7-8 anni fa facevamo uno spettacolo che si chiamava Femmina, per esempio, che utilizzava gli studi della filosofa Cavarero. Diciamo, il punto di partenza è un po' questo, cioè che l'inizio della cultura nostra occidentale moderna risale al tempo dei greci, quando si è separata per pericolosità o presunta pericolosità la donna, la femmina, che viene espulsa dal teatro, il problema dei capelli lunghi, il problema di tutto il rapporto con la natura, il fatto che poteva fare i figli, che si perdeva cura delle cose, mentre il mondo va bisogna andare verso la guerra, verso l'Occidente, verso uccidere. E quindi ecco, il punto di partenza è un po' quello, a nostro avviso ci sarebbe bisogno di equilibrio fra maschile e femminile, fra yin e yang, però gli orientali, una maggiore cura delle cose. Il filosofo Cimatti parla di cose un po' come se tutti fossimo delle cose, nel senso di dare un'attenzione per quello che ci si presenta davanti, scrive un altro filosofo, Ivan Ilic, quando c'è davanti c'è presente in tutta la sua dignità, invece l'essere umano ovviamente trascende la sua formazione, cultura, gli amori, le passioni, i dolori, tutti, eccetera, eccetera. Però questo, diciamo, progressivo allontanamento dal nostro corpo, che poi qualunque religione siamo, ma è col corpo che noi siamo al mondo, fa sì che noi siamo allontanati dagli accadimenti del mondo. Alcuni nomi già li hai fatti, ecco, a quali autori hai messo mano? Da un punto di vista, diciamo, di riferimento di studio della costruzione sono un po' questi che ti ho detto, cioè il punto di partenza è Heidegger, nel senso poi la risposta è stata fatta al filosofo tedesco da Derrida con un famosissimo testo che è L'animale dunque che io sono, e poi Agamben con L'aperto, e poi Felice Cimatti, che tra l'altro sarà ospite il giorno della prima con i suoi studi sull'animalità dell'essere umano e tutti gli studi di Adriana Cavarero. Da un punto di vista dei materiali con i quali noi lavoriamo in scena, naturalmente Cecchi, perché si parla di Ofelia, Magnus Enzelberg, l'autore del Titanic, Thomas Eliot e altri piccoli frammenti della Spector, questi sono, e della Bachmann, questi sono un po' i nostri riferimenti in scena, anche se noi in realtà facciamo cose più che parlare. Il nostro riferimento, faccio degli esempi non grandi, grandissimi, potrebbero essere il teatro di Wiener Bausch e quello di Tadeusz Kantor. Ecco, in questo senso la curiosità è, rispetto a questi filosofi, come si è tradotto il tutto nella messa in scena. C'è questa, parlo di quella tecnica del ciucciù, che è una tecnica cinese che forma un nuovo romanzo mettendo assieme pagine di altri romanzi, quindi è una specie di parodia, di collage di cose che già esistono per una cosa nuova che prima non esisteva, e in questo senso noi lavoriamo con queste pagine di questi filosofi e le intrecciamo con le pagine poi immagine diventano poi una scena, e queste scene vengono poi messe assieme attraverso la tecnica del montaggio, che era poi il teatro di Cantor, e che nel caso letterario è questa tecnica cinese. Quindi i nostri sono lavori, diciamo, all'inizio che lavorano per singole scene e per singole pagine, mettendo insieme appunto Derrida e Artaud, per esempio, o Artaud e Felice Cimanti, quelle due o tre pagine che ci interessano, su questo noi sviluppiamo delle scene, e poi queste scene vengono montate anche in maniera non lineare, come sono i ricordi, mettendo insieme dei ricordi o lontani o delle fantasie invece contemporanee. Questo titolo? Il titolo è, diciamo, un po' preciso, perché noi abbiamo usato come ambiente, potremmo dire, l'Amleto di Shakespeare, ma dal punto di vista di Ofelia. Nell'Amleto di Shakespeare, diciamo, l'eroe è proprio il principe Amleto, ma la persona che soffre di più in realtà la costruzione della tragedia degli avvenimenti è proprio Ofelia, perché Ofelia è in qualche modo controllata dal padre Polonio, è controllata dal fratello Laerte, ha degli incarichi da controllora dal re, e soprattutto Amleto per la sua vendetta si finge pazzo e invece lei impazzisce davvero. Quindi quella che sconta, diciamo, questa costruzione vendicativa è proprio la persona più fragile, che si era davvero innamorata del principe. E nella lettura di Cavarero, della filosofa Cavarero, c'è una indicazione interessante, in quanto lei, quando cade nell'acqua, forse suicida. Secondo invece la lettura che ne fa la filosofa Cavarero, lei si tuffa nell'acqua per tornare all'acqua da dove è venuta, in qualche modo per togliersi da questo assoggettamento dei maschi o del maschile, insomma. E quindi è un po' questo. E intorno c'è questo discorso della macellazione, che fa parte un po' del allevare polli tutti uguali, cioè, fa un po' uno spettacolo di gap, perché era polli d'allevamento, e questo allevare tutti in serie. E anche qui invece una presenza attenta, appunto una presenza animale, ci dovrebbe aiutare a sapere riconoscere meglio le cose. Dopo Roma lo spettacolo proseguirà il suo viaggio? Quest'estate sarà diviso, perché saremo all'estate romana alla Casa Internazionale delle Donne. Bene, allora ricordiamo lo spettacolo Ofelia o la macellazione degli animali domestici a Roma, Carrozzerie Not, dal 28 febbraio al 3 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore Riccardo Vannuccini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, viva il lupo in tempo di spettacolo di animalità. Ed eccoci per gli appuntamenti della settimana teatrale romana, il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, a cui lasciamo la parola. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti, come va? Bene, bene. Ah no, non stavo chiedendo a te una cosa così. Chiedevo ai nostri ascoltatori, quali non possono rispondere, allora io immagino vada tutto bene, perché come sempre accade, e il silenzio è assenso, e allora in quanto tale ce la prendiamo per buona. Dunque, sì, vabbè, ho fatto tutto da solo. Allora, che cosa andiamo a vedere a teatro questa settimana? Insomma, vediamo un po'. Accadono un bel po' di cose, alcune le abbiamo sentite, sappiamo soprattutto del debutto di due lavori importanti. Elena Vigo inizia il suo percorso, la sua trilogia dedicata, che andrà avanti per tutto il mese di marzo, sarà al Teatro Torlonia, che comincerà proprio questo weekend con Psicosi delle 4:48 di Sarah Kane, ma che proseguirà poi con anche altri spettacoli più avanti. E Teatro di Roma, che ci offre anche il debutto di un attesissimo lavoro, come abbiamo visto, di Lisa Ferlazzo Natoli, andremo a vedere invece al Teatro Argentina. Mentre per ciò che riguarda invece il Teatro di Roma in generale, Mi segnalo che finalmente il Teatro di Roma ha un direttore, e il direttore in questione, nominato da qualche giorno, è Giorgio Barberio Corsetti, cioè un grande rappresentante poi della scena sperimentale italiana degli anni Ottanta, che poi pian piano è diventato uno dei maggiori registi italiani conosciuti all'estero, e finalmente, devo dire, Giorgio Barberio Corsetti ottiene un ruolo di prestigio in un manageriale, insomma, come forse è opportuno che sia per i grandi artisti a un certo punto della loro esistenza e della loro, insomma, della loro carriera. Per ciò che riguarda la consulenza, invece, è stata affidata a un nome, diciamo, della scena indipendente romana, il nome che più si è segnalato in questi anni nel campo dell'organizzazione, ovvero sia la condirettrice di Short Theater e responsabile di molti progetti, soprattutto internazionali, Francesca Corona. Quindi ecco, battezziamo questo nuovo corso del Teatro di Roma con nomi importanti che mi fanno pensare le cose possano andare sicuramente meglio di così. Dunque, andiamo quindi poi a vedere anche gli altri teatri, perché andremo, come vi ho segnalato la scorsa settimana, andremo a vedere al Teatro Eliseo ben due lavori che hanno debuttato, il primo che sta in scena ancora questa settimana è il Shakespeare di Napoli di Ruggero Cappuccio, che insomma da molti anni ormai gira per le piazze italiane e non solo, ma direi che invece fino al 13 di marzo andrà in scena invece il lavoro firmato da Giancarlo Fares, dedicato al grande talento di Luigi Magni. Io sono andato a vederlo ieri, la commedia di Gaetanaccio è una commedia musicale, insomma un po' sulla falsariga dei vari Lugantino che hanno attraversato il Novecento romano e non solo. In scena c'è Giorgio Tirabassi, che dopo 40 anni dalla messa in scena di Gigi Proietti va a fare un po' Gigi Proietti, insomma, non solo in realtà, non fa il verso a Proietti, fa, lo omaggia con particolare competenza, e devo dire che è molto divertente, salvo alcune cosine, insomma, un po' da rivedere, però molto molto divertente. Quindi al Teatro Liceo, Sala Grande, la commedia di Gaetanaccio, da non sottovalutare. Dunque, allora, per quanto riguarda invece, anche per i più piccoli comunque, domenica 3 marzo 16:30 per Bianca e l'Olimpico, al Centrale Preneste per ragazzi, Bianca e l'Olimpico è una regia di Tiana Sansone, l'ha scritto, se non vado errato, sì, Ferdinando Vaselli, ed è un lavoro dedicato alla figura dell'angelo custode nelle fattezze del corpo di un giocatore di calcio, il capitano. E questo è curioso, perché effettivamente c'è la storia un po' del capitano, pensando a Francesco Totti, che poi insomma Ferdinando Vaselli ha questa fede che non copre in nessun modo, la fede calcistica romanista, e quindi anche per i più piccoli evidentemente ha cercato il modo di renderla. Che altro ti dico? Allora, sì, sicuramente un po' qualcosa c'è ancora da segnalare, perché fino alla settimana prossima ci saranno un po' di cose in più. Questa settimana allo Spazio Diamante andremo a vedere un lavoro di un bel po' di anni fa, di Rosario Lisma, che l'ha scritto e lo dirige anche e lo interpreta in scena. Si tratta di L'Operazione, fino al 3 marzo, con un nuovo cast, con anche Fabrizio Lombardo, Alessio Piazza, per questo lavoro che va a essere un po' sulle Brigate Rosse, l'operazione, quella che devono fare questo gruppo, questo covo di persone. In realtà è un'attività che loro da teatranti fanno verso un critico, quindi nelle mire della loro operazione, in questo caso è un critico, è chiaro, con ironia e anche un po' di crudeltà, è visto il mestiere dell'attore, un po' tragicomico, in relazione anche un po', insomma, a una possibile rivolta che negli anni passati è stata a contatto con altre situazioni e altri contesti, non certo con il teatro. Dunque, poi andremo anche al Teatro Marconi per vedere questo lavoro di Bernardino De Bernardis, fino al 10 marzo, Immigrati, brava gente, come dice il titolo appunto, è un lavoro legato alla clandestinità, all'immigrazione, che visti come categoria ovviamente è una critica, una critica alla società per come è oggi, e chi si chiede cosa succederebbe ad una famiglia napoletana animata da continue beghe interne se piombasse in casa un immigrato. Questo lo andremo a vedere al Teatro Marconi fino al 10 di marzo. Poi ti segnalo anche al Teatro Ambra Iovinelli, è l'occasione questa per andare a vedere fino al 10 marzo questo lavoro Tempi Nuovi di Cristina Comincini, che mette in scena un nucleo familiare con Iaia Forte, Maurizio Micheli, con cambiamenti veloci e sorprendenti che fanno un po' capo alla nostra epoca. Ci sono questi quattro personaggi sconvolti da qualcosa che accadrà nella famiglia e andremo a vederlo al Teatro Ambra Iovinelli, Tempi Nuovi di Cristina Comincini. Poi ancora al Teatro Vascello andremo a vedere fino al 3 marzo questo lavoro dedicato alla danza. Si tratta di Giselle, del balletto di Roma, con la coreografia di Chris Herring e Itamar Serussi Hazahar, che è, questo bisogna anche segnalare quando dico le cose fatte bene, il balletto Giselle, che ha avuto la sua prima rappresentazione 175 anni fa, è un gioiello di poesia romantica creato per il debutto parigino della ballerina italiana Carlotta Grisi, che adesso vedremo appunto al Teatro Vascello fino al 3 di marzo. Ultime cose che andiamo a vedere, vediamo un po' da segnalare, ma abbiamo già parlato fino al 3 marzo, Ofelia, la macellazione degli animali domestici, Riccardo Mannuccini, che sarà in scena al Teatro Carrozzerie Nord, da un uomo animale messo in prova a teatro una nuova presenza scenica. C'è Ofelia, Amleto, i pesci nel fiume, il limite tra animalità e umanità, tra il sé e l'altro da sé. Questo è ciò che andremo a vedere. Mentre ti direi che forse le ultime due cose che vorrei andare a segnalare, prima di tutto al Teatro Biblioteca Quarticciolo arriva la Compagnia della Fortezza, 28 febbraio, 1 marzo, vedete questo lavoro curato da Andrea Salvatori e Armando Punzo, con la regia di Armando Punzo, insomma della Compagnia della Fortezza, e poi il reggente da tanti anni, Il figlio della tempesta non è un semplice concerto, un progetto performativo musicale che rielabora un universo iconografico, insomma, che fa capo sempre alla Compagnia della Fortezza, da sempre. È uno studio sui caratteri, delle energie, delle frequenze della creazione, quindi la drammaturgia vera e propria, insomma, non si occupa del classico, come invece spesso la Compagnia della Fortezza, ma cerca di lavorare con una dimensione più sperimentale legata anche alla musica. Quindi a Teatro Biblioteca Quarticciolo, Il figlio della tempesta, 28 febbraio e 1 marzo, però il progetto probabilmente della settimana è il dittico dedicato a Danio Manfredini. Teatro India, Danio Manfredini probabilmente uno dei più grandi attori contemporanei, autori contemporanei, con due lavori. Luciano sarà in scena 26-28 febbraio, quindi precisamente da questa sera, per tre repliche, mentre invece per il weekend andremo a vedere Al presente, dal 1 al 3 marzo, sempre firmato da Danio Manfredini. Si tratta di un percorso ironico e malinconico nella solitudine, nella marginalità, questo personaggio cresciuto tra spazi occupati, laboratori con i disabili psichici e la radicalità artistica che sempre contraddistingue questo attore e autore Danio Manfredini, per chi non lo conoscesse, assolutamente da non perdere, al Teatro Inda. Un abbraccio Simone, alla settimana prossima, e può essere anche che ci vediamo a teatro. Benissimo, beh, è già successo. È già successo, lo possiamo testimoniare. Ciao caro. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.